scappata via quando mi sono vista dentro un labirinto senza decidere. Ospite in casa mia con sillabe d'amore tutte al pavimento come la polvere. Ma arrivi tu che parli piano e chiedi scusa se ci assomigliamo. Arrivi tu da che pianeta, occhi sereni, anima complicata, anima complicata. Io così simile a te, a trasformare il suono della rabbia. Io così simile a te, un bacio in fronte, dopo sulle labbra. La meraviglia di essere simili, la tenerezza di essere simili. Sagrada.